E proprio come Global Radio Palestina, a gennaio noi torneremo giù, saremo giù dal 6 di gennaio al 13 di gennaio a seguire le elezioni, per cui Global Radio Palestina sulle frequenze di Global Radio seguirà tutta la parte di chiusura di campagna elettorale in Palestina e le elezioni, e soprattutto quello che riteniamo più interessante, che è il post elezioni, cioè vedere cosa succede dopo le votazioni. Questo è un po', per invece parlare un po' di Yabasta più in generale, è un po' il modo di lavorare di Yabasta nei territori dove Yabasta si sposta, che non è solo Palestina, ma è ad esempio Chiapas. Yabasta è nata col Chiapas nel 96 e a tutt'oggi è molto presente in Chiapas, è presente anche in Colombia, in Brasile. Ed è affiancare sempre la società civile e soprattutto nei luoghi dove c'è resistenza, ci sono fenomeni di resistenza e lotta contro un sistema neoliberista, un sistema tra virgolette imperiale come lo chiamiamo noi, affiancando la società civile e i movimenti che partono dal basso, per cui non trovando referenti istituzionali ma referenti proprio della società civile, ed è quello che abbiamo fatto, che stiamo facendo in Palestina. Il progetto dell'olio, per tornare all'olio, è molto importante perché non è un progetto di commercio equo, cioè non è il progetto di importare un prodotto lavorato e prodotto in maniera solidale, in maniera biologica, per fare solo una campagna di sensibilizzazione verso il consumo, un consumo critico, certo anche questo. L'olio è... l'olio Kifa, il nome è un nome arabo che significa, in italiano significa lotta. Ed è significativo proprio perché il progetto è più un progetto, come piace definirlo a noi, insieme a quello del caffè zapatista che importiamo sempre dai territori messicani, è un progetto non di commercio equo ma di commercio ribelle, cioè è un progetto che va ad appoggiare le comunità che sono in resistenza, ognuno nella sua forma. Le comunità zapatiste sono effettivamente in guerra, in resistenza fattiva, proprio come la conosciamo noi, contro lo Stato messicano. Le comunità palestinesi sono 50 anni che nelle più varie forme resistono a quella che è l'occupazione più lunga e più diciamo massacrante, più dura e più umiliante che la storia moderna ricordi, e per cui in tutte le sue forme, non solo le forme che oggi conosciamo attraverso i media italiani, cioè la resistenza armata piuttosto che quelle delle frange più estreme, ma anche la resistenza, solo il fatto di continuare a rimanere su un territorio dove l'oppressore vorrebbe che tu non ci fossi, dal quale tu vorrebbe che tu te ne andassi, e per cui il progetto dell'olio ha fondamentalmente questo significato, cioè quello di consentire attraverso il sostentamento economico a delle famiglie che sennò dovrebbero andarsene perché a causa del muro, a causa dell'esproprio dei terreni non hanno più di che mangiare, di che sostentarsi, invece consentirgli di continuare a rimanere in quei territori, continuare a rimanere nelle loro case, continuare a coltivare quel poco di terra che loro rimane, e per cui di praticare una resistenza, cioè continuare a resistere rispetto ai progetti di qualcun altro, in questo caso di Israele, che invece vorrebbe vedere un'annessione di fatto attraverso l'esodo, la diaspora delle popolazioni, in questo caso per cause di indigenza e di impossibilità di continuare a mantenersi. Così come il progetto della radio, un altro progetto di resistenza dove Israele impone e dispone delle frequenze, impone e dispone delle libertà di stampa, non solo in Israele, ma ovviamente a maggior ragione nei territori occupati, il poter dare la possibilità di disporre di una voce libera alla stessa società civile palestinese, che non può essere controllata via etere da Israele, perché è una come la radio che ci sta registrando e che trasmetterà la serata di stasera, non va via etere ma va via web, in streaming e via satellitare, per cui anche facilmente replicabile, facilmente spostabile nei territori, consente ai palestinesi e a noi di parlare di Palestina non sulla Palestina, come magari stiamo facendo anche noi questa sera, ma parlare dalla Palestina, cioè sono loro che parlano di se stessi, ma è soprattutto, e la cosa a cui li stiamo spingendo molto anche noi, parlano anche di come loro da dentro vedono il mondo fuori, cioè come vedono l'esterno, vedono l'Europa, dei loro rapporti, di come si immaginano che potrebbe essere un futuro, non solo all'interno dello Stato di Palestina, ma come loro vorrebbero un futuro in un rapporto con quello che è il mondo occidentale. Partendo dall'ottica dei giovani, cioè da quello che è il futuro, soprattutto dopo le future elezioni che ci saranno. Per cui questi sono tutti progetti di resistenza e l'olio ne è solo una parte di questa cosa. Cos'altro dire rispetto all'olio? Le cose sono queste. In questi giorni ci sono le elezioni non sono facili, come avete letto un po' dai giornali e come vi potete immaginare. C'è un candidato forte perché è il candidato americano ed è il candidato israeliano fondamentalmente, che è Abu Mazen, uomo della Casa Bianca e uomo di Israele, di Tel Aviv, che però non è visto bene, non è visto benissimo da quasi la maggioranza dei palestinesi, cioè ha una maggioranza relativa, ma non ha una maggioranza dei palestinesi, che lo vedono male proprio perché sanno che è un uomo, non è un uomo di Palestina, ma è un uomo che viene da fuori. A sentire un po' i nostri amici giù, le elezioni non sono del tutto scontate. È ovvio che Abu Mazen ha la maggioranza delle possibilità di vincere, ancora oggi sono abbastanza consistenti. Però ad esempio anche il dottor Barghouti sta avanzando molto nei sondaggi, proprio perché va a individuare e a toccare la società civile palestinese, che non si è mai schierata né con Al-Fatah, cioè con Arafat, per dirla semplice, né con Hamas, la Jihad o gli ambienti estremisti. Anzi, che politicamente è molto laica, cioè non si è mai espressa politicamente, e che chiede legalità prima ancora che Israele alle stesse istituzioni palestinesi. Per cui è ancora più importante la nostra presenza giù in quei giorni, proprio perché sicuramente è una scommessa, cioè queste elezioni in Palestina saranno una forte scommessa. E il fatto che una realtà con la quale il movimento civile qua, noi, ma non solo noi, perché anche altre realtà italiane, Assopace piuttosto che le Donne in Nero, lavorano con la stessa realtà, sempre con il dottor Barghouti, in Palestina, siano espressione di una politica, di fare un modo di fare politica nuovo, almeno per i territori palestinesi, e che sia anche una realtà che vede l'esterno attraverso progetti come l'olio, attraverso progetti come la radio, eccetera, rende la nostra presenza giù ancora più interessante. E secondo me, per capire anche un po' come potrà essere il futuro di Palestina dopo il 9 gennaio, che sarà sicuramente un futuro molto diverso da come è stato fino adesso, indipendentemente da chi vinca. Per cui sarà molto interessante, e sicuramente progetti come l'olio o altri che verranno avanti con l'anno nuovo dopo le elezioni potranno incidere su una realtà politica come quella palestinese molto di più di quanto potevano incidere fino adesso. Per cui l'invito a tutti è quello di continuare a seguire l'evoluzione dei prossimi mesi di Palestina, perché sicuramente saranno molto accelerate e molto interessanti, secondo me. Basta.